è un ottimo giorno per scappare lontano dal mondo che non sai amare. È un ottimo giorno per morire distrutto da un odio che tu non sai capire. È un ottimo giorno per farsi saltare e piangano i morti che con te hai voluto portare. Ora è tardi per perdonare, ora è tardi, non posso tornare. E mentre penso che forse è un errore, c'è solo orrore. È un ottimo giorno per cercare del cibo al mercato, perché hai chi vuol mangiare. È un ottimo giorno per pensare un sorriso, finché vedi un uomo che per te ha già deciso. Ora è tardi per domandare perché mai mi sia venuta a cercare. E mentre penso che forse è un errore, è solo dolore. È un ottimo giorno per raccontare la storia di un mondo che non si sa mai amare. È un ottimo giorno per darsi da fare, perché mai nessuno si debba più immolare. È un ottimo giorno per pensare che Dio, se al mondo vuol bene, quel bene sia tuo che mio. È un ottimo giorno